Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, buon sabato, grazie per essere in nostra compagnia e benvenuti ad una nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend. Come sempre apriamo con la copertina. Anche questa settimana è dedicata al Covid e oggi prendiamo spunto da una parola che più volte abbiamo sentito e letto nel corso della settimana: immunità. Ne parliamo oggi con la professoressa Antonella Viola, che ringrazio per essere con noi, immunologa all'Università di Padova. Professoressa Viola, buongiorno e benvenuta a Obiettivo Salute Weekend. Buongiorno, buongiorno a tutti. Professoressa Viola, immunità si genera o non si genera? E nel caso, quanto dura? Una nuova ricerca dell'Università di Amsterdam suggerisce che potrebbe essere di breve durata. Allora, questa è un'ottima domanda ed è la domanda che ci siamo posti sin dall'inizio, nel senso che se si ricorda quando si parlava di patentino di immunità e certo, noi immunologi abbiamo detto no, per carità, aspettate un attimo perché è troppo presto. E infatti, allora, quello che è chiaro è che gli anticorpi non durano a lungo, quindi la produzione di questi anticorpi che viene innescata dall'infezione non si mantiene nel tempo. Gli anticorpi dovrebbero avere il ruolo di impedire l'infezione, no? Perché proprio sono definiti neutralizzanti, proprio perché legano il virus e impediscono il virus di entrare nelle nostre cellule. Ebbene, questi sembrano svanire nel giro di qualche mese. Tuttavia l'immunità non è solo la produzione di anticorpi, c'è anche l'attivazione di cellule della memoria che vengono generate e si mantengono e che potrebbero quindi avere un ruolo anche in caso appunto di seconda esposizione al virus dopo tempi più lunghi. Ecco, il ruolo di queste cellule nella protezione da SARS-CoV-2 ancora non è chiarissimo. Quello che oggi possiamo dire con certezza è che l'immunità sterilizzante, quella cioè che permette di evitare addirittura l'infezione, sembrerebbe difficile da raggiungere. Professoressa, ma in quanto questi risultati che si stanno ottenendo possono avere impatto sullo sviluppo del vaccino? Allora, anche questa è un'ottima domanda ed è anche questa una delle grandi domande che ci poniamo dall'inizio, nel senso che il vaccino a questo punto dovrebbe essere in grado, dovrebbe dimostrarsi in grado di funzionare meglio del virus, cioè dovrebbe essere in grado di attivare una risposta che rimane protettiva per più tempo, perché è ovvio che se il vantaggio del vaccino dura solo un paio di mesi, beh, non è un grande investimento, non è un prodotto che funziona. Il punto è, come dicevo, capire se si può, tra i vari vaccini che in questo momento sono in produzione, in sperimentazione, quale di questi riuscirà a generare una risposta della memoria più a lungo termine, quali di questi cercherà di generare quella quantità di anticorpi che si mantengono nel tempo più a lungo degli altri. E questa è la grande sfida. Professoressa Viola, grazie per essere stata con noi, le auguro una buona giornata, a presto e buona ricerca. Grazie, un saluto a tutti. Chiudiamo la copertina ma restiamo all'Università di Padova e continuiamo a parlare di Covid. Uno studio infatti dell'Università di Padova, effettuato dal Dipartimento di Medicina della stessa università, ha dimostrato che i pazienti affetti da diabete mellito hanno una maggiore probabilità di sviluppare forme gravi di Covid. Ne parliamo con il professor Fadini, endocrinologo dell'Università di Padova, primo autore dello studio, che è tornato a trovarci. Professor Fadini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Professore, già nel mese di marzo ne avevamo parlato, commentando i risultati di un'analisi di una vostra analisi preliminare che aveva già individuato questa particolare fragilità delle persone con diabete nei confronti del Covid. Ad oggi che cosa avete aggiunto, che cosa avete scoperto di nuovo? Sì, nel primo studio avevamo analizzato soprattutto i dati che provenivano dalla Cina all'inizio della pandemia e avevamo poche informazioni ancora sui pazienti italiani. In questo nuovo studio, grazie a uno sforzo congiunto di tutto il Dipartimento di Medicina, dell'università siamo riusciti effettivamente a quantificare qual è il rischio a cui i pazienti diabetici vanno incontro sviluppare forme più gravi di malattia da coronavirus. E soprattutto abbiamo capito che questo avviene perché l'iperglicemia, cioè le alte concentrazioni di glucosio nel sangue, che è tipico del diabete, danneggia i polmoni e quindi nel contesto della malattia da coronavirus è più facile che i pazienti diabetici progrediscano verso forme più severe. Un'altra cosa molto importante è che una parte di questi pazienti con l'iperglicemia, con il diabete, non sapevano di avere il diabete e sembra che siano proprio quelli che hanno delle forme ancora più gravi con il rischio di sviluppare la necessità di ventilazione e terapia intensiva. Quindi ancora una volta l'idea di porre grossa attenzione alla diagnosi del diabete in tutte le persone che ne sono affette. Quindi cercare, professor Fadini, di smascherare il sommerso. Ci può dare delle indicazioni? Il diabete nelle fasi iniziali non dà sintomi. Infatti è stato proprio questo il problema. In Italia e anche in Veneto noi sappiamo che la prevalenza del diabete è circa 6,5% di tutta la popolazione. Però per ogni 2 o 3 persone che ha il diabete noto, cioè che sa di averlo, sappiamo che c'è una persona con il diabete misconosciuto, cioè che ha già la glicemia alta, tale da poter essere, diciamo, diagnosticato il diabete, ma il paziente non lo sa, perché nelle fasi iniziali e per molti anni, anche 10 anni, questa iperglicemia è completamente asintomatica. Però quando il paziente sviluppa un'altra malattia, come può essere un infarto, quindi un problema cardiaco, oppure il coronavirus in questo caso, allora lì l'iperglicemia esercita un effetto particolarmente dannoso e porta il paziente ad avere un rischio aumentato. Per cui lo screening e la diagnosi precoce per far emergere, come dice lei giustamente, il sommerso è assolutamente importante e fondamentale. Professore, fare diagnosi di diabete oggi è molto semplice, basta fare un controllo della glicemia. Ma professor Fadini, chi dovrebbe farlo in modo particolare? Giustamente, domanda molto giusta. Diciamo che dopo i 40 o i 50 anni un controllo della glicemia a digiuno andrebbe fatto praticamente a tutti, però ci sono persone più a rischio, sono le persone che hanno una familiarità per diabete, cioè chi ha una familiare di primo grado, quindi genitori con diabete tipo 2, le persone in sovrappeso, sì, le persone che hanno altri fattori di rischio cardiovascolare come l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, tutte queste persone sono a rischio di sviluppare o di avere già il diabete, per cui è in loro che bisogna concentrare gli sforzi per lo screening, che come dice lei è veramente semplicissimo, basta la misurazione della glicemia. Professor Fadini, torniamo invece alle persone che hanno ricevuto diagnosi di diabete. Quali sono gli strumenti che hanno a disposizione per ridurre il rischio di essere maggiormente esposti a forme più gravi di Covid? Come per tutte le complicanze del diabete, quello che conta è controllare meglio possibile la malattia, cioè l'iperglicemia. Questo si fa naturalmente con lo stile di vita, la dieta, il movimento e quando questi non bastano bisogna ricorrere ai farmaci. Abbiamo tantissime opportunità terapeutiche per trattare il diabete, per esempio il diabete tipo 2 dell'adulto, ed è anche il paziente deve svolgere il suo ruolo, è fondamentale l'aderenza alla terapia, seguire le prescrizioni sullo stile di vita, sulla dieta e quelle farmacologiche che vengono date dagli specialisti, e questo è in assoluto il metodo migliore per prevenire le complicanze croniche della malattia, che possono coinvolgere il cuore, i reni, la retina e adesso sappiamo anche i polmoni durante la malattia da coronavirus. Professor Fadini, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Il messaggio l'abbiamo ricevuto, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Quindi aderenza alla terapia, stile di vita sono molto importanti, anche perché, come sottolineava il professor Fadini, il diabete ha delle complicanze che vanno prevenute, diagnosticate precocemente. Una fra queste è la retinopatia diabetica, ne parliamo tra poco. Vi aspetto. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Sono Maria Latella e quest'anno alle 10, ogni domenica, se vorrete, prenderemo insieme un caffè. Con noi ci sarà un ospite o una ospite, parleremo di quel che è successo nella settimana tra politica e attualità, magari faremo qualche previsione su quel che potrebbe succedere nella settimana che comincia. Perciò vi aspetto, tazzina alla mano. Dopo, come sempre, ci sarà Nessuna è perfetta. con i tanti argomenti che riguardano la vita e il lavoro delle ascoltatrici di Radio 24 e degli ascoltatori, che ci sono e sono tanti, perché mai come quest'anno i problemi vanno affrontati insieme. D'accordo allora? Alle 10 con il caffè della domenica e poi con Nessuna è perfetta. Obiettivo salute weekend. Siamo tornati insieme e parliamo di una complicanza del diabete, retinopatia diabetica. Perché una patologia come il diabete ha delle ripercussioni sulla salute oculare, in particolare sulla salute della retina? Ne parliamo oggi con il professor Bandello, primario dell'unità oculistica dell'ospedale San Raffaele di Milano, ordinario di oftalmologia, che è in linea con noi. Professor Bandello, grazie, bentornato e buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Professore, ci spiega la relazione tra occhio e diabete? Allora, il diabete, come si sa, è una malattia caratterizzata da un accumulo di zucchero nel sangue, cioè sì, un eccesso di glucosio, che è lo zucchero che è presente nel sangue. Questo accumulo di glucosio nel sangue, che si determina per una deficienza, un deficit assoluto o relativo di insulina, determina nel tempo, con delle modalità croniche molto lente e graduali, dei danni capillari, ma in effetti non solo i danni capillari, ma anche i danni al tessuto nervoso, che vengono esercitati dall'accumulo di zucchero nel sangue anche in un modo diretto, non solo mediato dalla capillaropatia. Comunque, cronicamente tutti i tessuti dell'organismo subiscono dei danni, e quelli alla retina sono tra quelli più importanti. Primo, perché la retina è un tessuto fondamentale nel processo della visione. Secondo, perché la retina è un tessuto fatto da cellule perenni, per cui quando si determina un danno che fa morire un certo numero di elementi cellulari, quel danno per definizione è irreversibile. Per questo, professor Bandello, vogliamo sottolinearlo, la retinopatia diabetica è considerata una delle principali cause di ipovisione e cecità in età lavorativa nei paesi industrializzati. Questo racconta molto bene l'impatto di questa malattia sulla salute e sulla qualità di vita. Non c'è dubbio, e poi ci sono anche delle ricadute importantissime da quello che tu hai un attimo fa detto, cioè il fatto che siano le persone in età lavorativa quelle che subiscono il danno maggiore da retinopatia diabetica comporta tutte quelle inevitabili conseguenze dal punto di vista dei costi sociali che si determinano quando una persona che dovrebbe lavorare è costretta ad andare in ospedale per farsi curare, piuttosto che dal medico, piuttosto che farsi accompagnare. Insomma, ci sono tutta una serie di costi che ruotano intorno all'universo retinopatia che hanno delle ricadute importantissime nel campo dell'economia sanitaria. Ma professor Bandello, quanto è alto il rischio per una persona con diabete di manifestare una retinopatia? Quali sono i fattori di rischio? Non so, la durata della malattia, il controllo della malattia, che cosa pesa? Allora, pesa prima di tutto la durata della malattia diabetica. Un diabetico che ha appena cominciato la sua vita da diabetico ha una probabilità di sviluppare retinopatia prossima allo zero. Più tempo passa, più questa probabilità aumenta, proprio in ragione di quello che dicevo prima, è una complicanza cronica, ci vuole del tempo perché i danni si determinino. Un altro elemento fondamentale è come ci si comporta col diabete. Il diabete è un brutto compagno di vita, perché uno deve starci dietro, deve limitarsi con l'alimentazione, deve fare una certa attività fisica, ci sono una serie di regole, diciamo, di igiene di vita che vanno rispettate, e se tu non lo fai, purtroppo quotidianamente il diabete rischia di darti dei danni. Allora, un buon controllo della malattia diabetica è fondamentale, perché le complicanze, e tra queste la retinopatia, una delle più importanti, vengano dopo e siano meno gravi. Questo è stato dimostrato oramai da tantissimi studi importanti consegnati alla letteratura oramai da decenni. Quindi durata del diabete, qualità del controllo metabolico e poi una serie di altre cose che si possono associare con la condizione di diabete che fanno aumentare la probabilità delle complicanze, tra cui la retinopatia. E queste sono l'ipertensione arteriosa: più bassa è la pressione nel diabetico da questo punto di vista, meglio è. e poi il colesterolo, i trigliceridi, tutte condizioni che se presenti contemporaneamente al diabete mellito aumentano la probabilità che le cose vadano meno bene. Tra queste poi ci sono delle altre cose particolari, la gravidanza, in corso di gravidanza può succedere che l'evoluzione della retinopatia abbia una accelerazione improvvisa e di questo bisogna tener conto quando la donna diabetica affronta il periodo della gravidanza. Professore, la retinopatia nelle sue fasi iniziali è asintomatica, da qui deriva ancora di più l'importanza dei controlli, dell'attenzione, ma naturalmente il medico, l'oculista ha degli strumenti a disposizione per fotografare la situazione. Fotografare è il termine esatto, nel senso che noi facciamo delle fotografie del fondo oculare. Queste fotografie del fondo oculare sono la base per stadiare la retinopatia, cioè attribuire un certo livello di evoluzione alla retinopatia, e a seconda di quel livello di evoluzione noi sappiamo che il paziente deve essere indirizzato presso un centro esperto, oppure semplicemente deve tornare a fare una visita, oppure può stare tranquillamente a casa per 2-3 anni senza bisogno di fare ulteriori controlli perché c'è l'assenza di lesioni. Bene, perché si raggiunga questo livello di analisi della situazione in assenza dei sintomi visivi, perché questo è l'ideale, che il paziente diabetico vada dall'oculista quando non ha nessun sintomo, sì. Allora bisogna che siano implementati, come dicono gli anglosassoni, siano messi in pratica dei programmi di screening delle complicanze oculari del diabete. Cosa vuol dire? Il paziente diabetico, tutti i pazienti diabetici, senza avere nessun sintomo, devono andare a fare questo screening, che vuol dire guardare il loro fondo dell'occhio ed analizzarne le caratteristiche. Questo una volta doveva essere fatto con strumenti costosi e con personale addestrato. Oggi la tecnologia mette a nostra disposizione delle apparecchiature automatizzate che consentono di fare le fotografie del fondo dell'occhio senza neanche bisogno che ci sia l'operatore, e poi ci sono i programmi di intelligenza artificiale che, analizzando queste immagini, in modo automatico sono già in grado di dire al paziente lei può tornare a screening tra 1-2 anni, oppure deve andare subito dall'oculista, oppure deve correre a farsi trattare perché ha una retinopatia molto avanzata. Questo tipo di programmi di screening hanno delle ricadute enormi, dei vantaggi enormi sul piano della qualità dell'assistenza, perché è evidente che tu in questo modo eviti tantissimi casi di progressione della retinopatia fino agli stadi molto avanzati, ma poi soprattutto hanno dei vantaggi enormi in termini di economia sanitaria, perché costa molto meno implementare un programma di screening piuttosto che dover trattare dei pazienti che hanno delle complicanze avanzate da retinopatia diabetica. Certo, arrivare prima per curare meglio. Assolutamente. Di questo, tra l'altro, professor Bandello, vogliamo ricordarlo, si è parlato in un evento, Occhio e Diabete, Prevenzione, Cure, Prospettive Future, che si è tenuto proprio ieri, 18 settembre, al Sole. Potete rivederlo sul sito Stream 24, sole24ore.com, nella sezione eventi, in cui professor Bandello, dove lei era presente con una interessantissima relazione, abbiamo proprio, come si dice, guardato al futuro. Sì, io credo, adesso si fa tanto parlare di questa dell'Europa che viene incontro alle esigenze dei vari paesi per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi sanitari. Io credo che chi come me si interessa di questi argomenti, insieme a chi sa fare poi la parte pratica di questi progetti sanitari, dovrebbe darsi un grande affare oggi per cercare di realizzare, utilizzando questi finanziamenti, un programma di screening delle complicanze oculari del diabete che in Italia non è mai stato realizzato, o lo è stato a livello molto a macchia di leopardo, con delle piccole realtà dove le cose funzionano bene, ma nella stragrande maggioranza delle regioni d'Italia non c'è assolutamente nulla. Ebbene, noi dovremmo adoperarci perché finalmente questa cosa arrivi all'orecchio di un politico attento e politico capisca l'importanza di questo progetto e voglia realizzarlo nell'interesse di tutti. Anche se i risultati forse si raccoglieranno negli anni, non nell'immediato. Questo è il dramma di queste cose, perché il politico spesso ha una sensibilità molto di breve respiro, diciamo, che guarda alle elezioni prossime venture e ha difficoltà a immaginare i vantaggi che a lui potrebbero derivare dall'associare il proprio nome, semmai, con la realizzazione di un progetto del genere. Però sono convinto che questa è la strada da percorrere e dobbiamo tutti impegnarci perché questa cosa venga realizzata in Italia. Abbiamo parlato di screening, professor Bandello, parliamo di terapie. Quali sono ad oggi le terapie a disposizione che permettono controllare la retinopatia diabetica? Sì, questo lo voglio dire. Noi oggi abbiamo strumenti di terapia che consentono di evitare che il paziente perda la vista a causa del diabete. Questo è un concetto che il diabetico deve conoscere, perché è inutile avere il terrore di perdere la vista quando questo terrore oggi non è più giustificato, e per evitare che si realizzi la perdita della vista bisogna semplicemente farsi vedere quando le cose vanno bene. Noi abbiamo a disposizione oggi le iniezioni intravitreali di farmaci di diversa natura che hanno completamente rivoluzionato l'approccio terapeutico alla retinopatia diabetica, migliorando sostanzialmente la prognosi per i nostri pazienti. Abbiamo poi sempre il laser da riservare a delle forme un po' più avanzate, così come poi abbiamo la chirurgia vitroretinica, gli interventi chirurgici quando le cose sono andate ancora più avanti. Ma l'auspicio è che grazie a una diagnosi precoce, a dei programmi di screening che funzionano, si riesca con le iniezioni intravitreali ed eventualmente con il laser a evitare sempre e comunque che si arrivi agli stadi più avanzati della retinopatia. Professor Bandello, io la ringrazio per essere stato con noi, per la sua chiarezza, mi auguro di sentirla presto. Grazie a lei, grazie, non so se dire lei o te, ma insomma grazie a te Nicoletta, grazie. Diciamo, possiamo dirlo a questo punto. Grazie a tutti gli ascoltatori e in bocca al lupo a chi spera di realizzare un progetto di screening delle complicanze oculari del diabete in Italia. Buona giornata al professor Bandello, a Gianmarco Ferronato in regia, alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Vi do appuntamento come sempre domani, vi ricordate, avete un appuntamento con la Nico alle 12 alla Bufala in Tavola, si mangia insieme. Buona giornata e buon sabato. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.